Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, siamo insieme, sono le 11:10, intanto buona settimana. Filippo Aureggi è in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi è in redazione, i titoli del nostro sommario, andiamo. Digestione difficile? Scopri il colpevole, l'impronta della voce femminile. Il caso dei bambini su Facebook, parliamone insieme. Oggi parliamo di digestione difficile, ossia quando il dopo pranzo e il dopo cena diventano una sfida vera e propria. La domanda di oggi quindi è: chi avrà la meglio? Che cosa si nasconde dietro la digestione difficile? Lo scopriremo oggi nel corso della nostra trasmissione, guidati dal professor Guido Costamagna, che è direttore dell'unità di endoscopia digestiva e chirurgica dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma, che abbiamo il piacere di avere con noi. Buongiorno professore, bentornato. Grazie. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. In studio qua con me ho Alessandro Pellizzari, che puntuale ogni mese viene a trovarci e anche nel numero in edicola. Ciao Alessandro. Un piacere, soprattutto. Non per dovere. No, qui prima il piacere. Prima direi. Il piacere. E, tra l'altro, anche voi vi occupate di digestione difficile, di una delle cause più frequenti di digestione difficile. Parlate infatti di reflusso. Di reflusso gastroesofageo. Infatti abbiamo inventato un titolo carino che si chiama Cuore in tilte per un'aranciata, perché raccontiamo la storia di questa... di questa ragazza che, bevendo un'aranciata, ha avuto tutti i sintomi che possono essere veramente dolorosi, appunto l'ha preso per una specie di infarto e quindi ha scoperto così di avere il reflusso gastroesofageo. E abbiamo approfondito questo tema anche sul fronte delle novità. Per esempio, c'è stato un allarme legato all'uso dei farmaci in modo prolungato, si parlava di aggressività aumentata, di problemi con gli psicofarmaci, di interazioni, e abbiamo approfondito anche quello. Infine abbiamo costruito, e se ti va potremmo illustrarla insieme, una giornata ideale antireflusso, cioè dalle 7 del mattino alle 23, quali sono le cose da fare e da non fare per riuscire a superare la giornata senza avere quel senso di acidità che, bruciore, vi assicuro, acidità, è assolutamente fastidioso. Perché anche tu ne soffri? Anch'io ne soffro. Male che abbiamo il professor Costamagna, che ci aiuterà a capire se la nostra digestione è difficile per colpa di uno stile di vita non corretto: mangiamo troppo veloce, troppo in fretta, mangiamo alimenti, cibi troppo grassi, oppure se invece tutto dipende da magari una piccola alterazione del funzionamento degli organi deputati alla digestione. Professor Costamagna, ce la faremo? E ci proviamo. E certo. Intanto iniziamo a capire quali sono i sintomi legati a uno stile di vita scorretto, a ciò che mangiamo. Che cosa può succedere se è la dieta a essere la colpevole? L'elenco può essere lunghissimo e poi sono dei sintomi molto spesso soggettivi, difficili da oggettivare. Ecco perché è importante escludere che ci siano dei sintomi cosiddetti di allarme, cioè quei sintomi che fanno pensare a qualche problema serio organico. Sono questi soprattutto che bisogna eliminare. E quali sono essenzialmente? Sono la disfagia, cioè la difficoltà al passaggio del cibo nel transito dalla bocca allo stomaco, quindi nell'esofago essenzialmente, il dolore alla deglutizione, un dimagrimento importante rapido, la presenza, la comparsa di un'anemia o la presenza naturalmente di sangue nelle feci o nel vomito. Questi sono, diciamo, i sintomi di allarme che devono far scattare delle contromisure diagnostiche subito. Invece, per quanto riguarda la digestione lenta, quando si va dal medico o tra di noi si dice: guarda, ho qualcosa piazzato sullo stomaco, non va né su né giù, che cosa può essere, professor Costamagna? Può essere di tutto. La cosiddetta sindrome dispeptica, che è un nome brutto per indicare una cosa che può avere mille ragioni di essere, e sicuramente una delle più importanti è la cattiva alimentazione, cioè la maniera sbagliata di alimentarsi, sia in termini dei cibi, sia nelle modalità dell'alimentazione. Sempre più spesso durante il lavoro, per esempio, non c'è tempo per mangiare, quindi si mangia qualche cosa in piedi, masticando male, buttandolo quasi giù rapidamente in 5 minuti per poi tornare a lavorare. Ecco, questo per esempio è sicuramente alla base di molte digestioni difficili. Oppure la sera, dopo magari una giornata passata al lavoro a digiuno, ci si abboffa di cibo e subito dopo, invece di alzarsi e andare a fare una passeggiata per iniziare bene la digestione, ci si sprofonda in poltrona davanti alla televisione o a leggere un libro. Invece bisognerebbe andare a fare due passi. Chi vive con un amico peloso a quattro zampe è obbligato a fare due passi e quindi a digerire. La pet therapy. Idea. Vedi? Ecco, 800 24 00 24, se volete parlare della vostra digestione difficile, per l'appunto, potete naturalmente come sempre scriverci un messaggio 349 238 6666. Molti di voi ci stanno chiedendo: ma parlerete quindi del reflusso? Ebbene sì, parleremo anche di reflusso e non solo, e con il professor Costamagna andremo sicuramente a indicarvi le strategie migliori, soprattutto come individuare anche quei sintomi che con il reflusso sembrano avere poco a che fare. Quindi restate con noi, chiamateci, raccontateci come che cosa succede nei vostri dopo pranzo e dopo cena. Una mela al giorno. Alle donne per sedurre basta la parola, e quanto emerge da uno studio del Dipartimento di Psicologia dell'Università di New York, che noi commentiamo oggi con l'aiuto della dottoressa Erika Sibillo, medico ed esperta di musicoterapia. Buongiorno dottoressa Sibillo. Buongiorno a tutti voi. Sì, questo studio è veramente molto interessante perché ha messo in luce che proprio nella donna ci sono alcuni momenti e occasioni nell'arco della giornata in cui i comportamenti di seduzione femminile nei confronti dell'altro sesso aumentano proprio per motivi biologici, guarda caso legati ai meccanismi della riproduzione, e i ricercatori hanno scoperto che è proprio la voce a diventare decisamente più affascinante, ammaliatrice nei giorni collegati alla fertilità. Questo perché probabilmente gli ormoni sessuali femminili durante il periodo fertile vanno ad agire anche a livello della laringe, dove sappiamo si trovano le corde vocali da cui appunto si genera la voce. Allora, questi ricercatori hanno registrato, confrontato la voce di un gruppo di donne nelle diverse fasi del ciclo mestruale e hanno rilevato che il tono della voce diventa, adesso per semplificare, più acuto nei giorni in cui la fertilità è ai massimi livelli. E guarda caso, gli uomini, ma anche donne a cui venivano fatte ascoltare queste e altre registrazioni di voci femminili, giudicavano decisamente più attraenti, affascinanti, senza ovviamente saperlo, proprio quelle voci femminili registrate nei periodi di massima fertilità. Quindi una sorta di richiamo, dottoressa Sibillo. Esattamente, cioè la donna attraverso anche la modifica del tono della voce inconsciamente avverte l'uomo di essere nel periodo giusto, non so, per esempio per allargare la famiglia. E allora do anche un altro piccolo suggerimento: mettiamo su un bel brano di musica classica, perché, e qui ci dicono sempre gli studi, in certi particolari momenti pare che sia proprio la musica classica, più di qualsiasi altro genere musicale, insomma, ad elevare lo spirito. Alessandro, tu te ne eri accorto di questa variazione di voce femminile? No. No. Vede, bisogna coltivarli questi. Però quando ho sentito l'inizio di questa ricerca ho detto, beh, certo, ma ho pensato di più alla parola, no? E quindi a quello che ci dite, ecco, che è sicuramente importante, perché voi siete molto brave a cambiare le frasi, a usare l'italiano. Stiamo andando su un terreno un po' scivoloso. Dottoressa Sibillo, io vorrei chiederle come digerisce lei e che problemi ha lei, che oltre a essere medico è anche cantante. C'è uno studio molto interessante che avevamo già commentato con il professor Costamagna, professore, che dice che i cantanti soffrono, sono più a rischio per il reflusso gastroesofageo. Vero, professor Costamagna? Esatto, sì. Vediamo allora come se la passa la nostra dottoressa Sibillo. Ma fortunatamente devo dire che non ho di questi problemi al momento, è proprio vero, proprio lo studio viene dall'Università Cattolica, dal Policlinico Gemelli, e si è visto che il reflusso gas esofageo è proprio più frequente, quasi del doppio nei cantanti d'opera rispetto alla popolazione normale, ma questo probabilmente perché noi insomma diamo una prolungata sollecitazione al nostro diaframma quando dobbiamo emettere brani, cantare appunto brani d'opera. E questa eccessiva pressione addominale su quella valvola esofagea probabilmente è quella che causa più di frequente questo tipo di danno. È chiaro che bisogna stare attenti perché nel cantante lirico un reflusso potrebbe dare poi problemi a livello laringeo, a livello delle corde vocali, quindi creare una sorta di infiammazione costante che si manifesta poi come con la raucedine, un po' di tossettina insistente, eccetera. Quindi sicuramente il cantante d'opera, oltre a fare un gran bel mestiere, deve osservare uno stile di vita assolutamente rigoroso, lontano da tante situazioni che possono peggiorare questo tipo di malattia, di patologia. Grazie allora alla dottoressa Sibillo, le auguro una buonissima giornata e buon canto, dottoressa. Grazie, anche a tutti voi una buonissima giornata. Pronto soccorso. Bruciore di stomaco, senso di pesantezza, a volte anche il cerchio alla testa. Questo è il vostro problema. Restate con noi perché oggi parliamo di digestione difficile. Abbiamo in linea anche Nuccio che ci chiama dalla provincia di Napoli. Nuccio, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo questa spiegazione. Io in effetti ho il problema allo stomaco, nelle prime ore della mattina, verso le 5:30 alle 6, mi sveglio con una specie di pesantezza al basso ventre, e poi dopo che mi alzo prendo un Pantec T20 che mi, diciamo così, durante la giornata mi passa. Poi in questo momento, anche perché c'è questa giornata, diciamo così, molto piovosa a Napoli, mi sento questo bruciore di stomaco, questa specie di malessere che non riesco a capire che cosa possa essere, anche se mi sono preso una pilloletta di Pantec T20 che è un inibitore di pompa. Grazie Nuccio, io giro la sua domanda al professor Costamagna. Professore. Beh, sono dei sintomi che non, diciamo, il bruciore sì può essere un sintomo di reflusso gastroesofageo o comunque di iperproduzione di acido cloridrico da parte dello stomaco. La pesantezza al cosiddetto basso ventre mi sembra che non abbia niente a che vedere, mi sembra più un sintomo da mettere in correlazione con un'eventuale presenza di un colon irritabile o di una sindrome dell'intestino irritabile. Il fatto che il signor Nuccio prenda sistematicamente un inibitore di pompa, il pantoprazolo in questo caso ha una dose comunque di 20 mg che è una dose di mantenimento, e nonostante questo abbia ancora bruciore, può voler dire due cose: o che il è sottotrattato, quindi ha bisogno di una dose piena, 40 mg che è la dose normale, oppure che risponde poco ai farmaci. Questo chiaramente è una cosa che bisogna indagare un pochino meglio. Vorrei leggere, professor Costamagna, lei in apertura di trasmissione fatto un elenco dei sintomi che ci devono spingere a consultare il medico. Li ripetiamo velocemente in modo che i nostri ascoltatori, stanno arrivando numerosi messaggi che fanno proprio, chiedono di avere delle indicazioni ulteriori. Abbiamo detto una sensazione di difficoltà nella deglutizione, un primo sintomo. Che noi chiamiamo di allarme, sì, che dovrebbero portare il paziente a fare perlomeno una visita dal medico e eventualmente dallo specialista, ma anche una gastroscopia in tempi abbastanza rapidi. Sono essenzialmente la disfagia, cioè la difficoltà al passaggio del cibo, sì, durante la deglutizione dalla bocca, quindi allo stomaco, nel transito esofageo. Il dolore, che in termini tecnici si chiama udinofagia, cioè il dolore durante la deglutizione, è un altro sintomo che deve allarmare, un dimagrimento recente e importante, la presenza di la comparsa di un'anemia importante, e naturalmente se c'è del sangue rosso vivo o digerito nelle feci o in caso di un episodio di vomito. Non è necessario avere tutti questi sintomi insieme, vero professore? No, basta uno di questi. Ecco, in questo caso si va dal medico e quali sono gli esami oggi a disposizione per valutare la situazione? Beh, il primo esame, l'esame principe, è l'esame endoscopico, cioè la esofago gastroduodenoscopia. È un esame che permette di mettere in evidenza non solo la patologia organica eventualmente presente, ma di avere anche appunto una valutazione nel caso di sintomi da reflusso sulla presenza o assenza di un'ernia iatale, sulla presenza o assenza di una metaplasia intestinale, cioè di un esofago di Barrett, e naturalmente permette anche contestualmente, se necessario, di fare dei prelievi bioptici per caratterizzare le lesioni viste o anche semplicemente per fare dei prelievi bioptici per verificare la presenza o assenza di una infezione da Helicobacter pylori nello stomaco, che è un'altra patologia molto diffusa. Volevo tornare un attimo all'ascoltatore di prima, no? Perché la notte non è amica del reflusso e della buona digestione. Tanto, come dicevi tu, ormai noi italiani mangiamo, abbiamo il pasto principale che si è spostato alla cena, quindi si conclude la serata e molto spesso ci si stende davanti alla TV, ci si stravacca un pochino e lì parte il sonno, quindi le famose 3 ore di digestione che raccomandano sempre tutti i medici. È difficile, insomma, ecco. Poi appunto chi non ha il cane non ha il dovere e piacere di portare a spasso il cane e tende a stravaccarsi. E poi c'è un discorso, per esempio, noi abbiamo scoperto facendo questo servizio su Star Bene che è vero che è importante tenere la testata del letto un po' più alta, avere il cuscino, però non aiuta così tanto, perché chiaramente il reflusso è più semplice quando, cioè, si attiva di più quando tu sei distesa. E ci hanno detto invece che è importante non bere prima di andare a dormire, quindi la distanza fra i pasti e non bere, come facciamo molti, il bicchiere d'acqua prima di dormire, è vero professore? Professore, in effetti ci sono delle abitudini che si tramandano e delle cose che sono state invece validate scientificamente. Il discorso di alzare la testata del letto, in realtà, pur essendo una cosa che si tramanda, non ha nessuna validazione scientifica. Si è visto invece che riduce il reflusso quando si è in posizione supina il fatto di mettersi sul fianco di sinistra, perché mettendosi sul fianco di sinistra lo stomaco, che è un organo asimmetrico, aumenta l'angolo di incidenza dell'esofago nello stomaco e quindi, diciamo, rafforza uno dei meccanismi antireflusso. Sui liquidi è vero, anche se non conosco diciamo dei dati anche qui scientificamente validati, comunque i liquidi sono quelli che refluiscono più facilmente. Per quel che riguarda la notte e il giorno, anche qua bisogna fare una piccola precisazione: ci sono dei pazienti che sono dei reflussori in posizione eretta e di notte non hanno reflusso, quindi lo studio delle variazioni del pH dell'esofago, cioè dell'acidità nell'esofago durante 24 ore con la pH-metria o adesso anche durante 48 ore con la pH-metria mediante capsula che si può inserire nell'esofago, è molto importante per capire che tipo di reflussore abbiamo davanti. Se è diurno o notturno? Esatto, sì. Perché la terapia in questi casi cambia, professore? In qualche caso può cambiare, nel senso che i farmaci inibitori a pompa protonica hanno una distribuzione sulle 24 ore che dovrebbe coprire le intere 24 ore con una presa singola alla mattina a digiuno. In realtà ci sono dei pazienti che hanno il cosiddetto breakthrough notturno, cioè una rottura notturna di questo affetto antiacido dell'inibitore di pompa. E quindi c'è una brusca caduta del pH durante le prime ore del mattino. Allora, in questo caso, tra l'altro, non è utile aumentare i farmaci inibitori di pompa, perché questi hanno già completamente saturato i recettori. Bisogna fregare lo stomaco in un'altra maniera, cioè bisogna aggiungere dei farmaci che sono i vecchi anti-H2 tipo la ranitidina, che inibiscono la secrezione acida con un altro meccanismo di azione. In questo caso si riesce ad ottenere una copertura totale. Naturalmente anche la dieta è importante, di questo parleremo nel corso della nostra trasmissione. Ci sono degli alimenti più a rischio di altri, oltre a una sensibilità individuale. Un peso sullo stomaco, la digestione difficile, ma anche il bruciore, qualche cosa che torna su. Oggi parliamo di tutti quei sintomi che spesso compaiono dopo pranzo, dopo cena, ma a volte disturbano anche le nostre notti. In linea con noi abbiamo il professor Guido Costamagna, 800 24 0024, questo è il numero oggi per digestione difficile, per scoprire il colpevole, ma intanto nell'attesa delle vostre chiamate dedichiamo qualche minuto per commentare il ritiro dei vaccini per l'influenza. Stabilito da una circolare della Direzione Generale Prevenzione e Sanità del Ministero della Salute. In linea con noi abbiamo la professoressa Maria Rita Gismondo, che è direttore della microbiologia clinica presso il Polo Universitario Luigi Sacco di Milano e anche membro della Task Force sull'influenza A del Comune di Milano. Buongiorno professoressa e bentornata. Buongiorno, grazie a voi di avermi chiamata, è sempre un piacere. Allora professoressa Gismondo, i vaccini dopo tante polemiche escono di cena, verranno ritirati, ma con destinazione ancora da definire. Questo è quanto sappiamo. Sì. Allora, a questo punto, nell'attesa che poi ci dicano esattamente dove andranno a finire, una domanda sorge spontanea. Devo dire che ce la siamo fatti per tanto tempo, tanti giorni, ma ci siamo poi alla fine preoccupati troppo? Senta, mi lasci dire che io faccio parte di quel gruppo di persone che lavorano perché qualcosa non accada. E questo è un impegno spesso non riconosciuto. Io farei una domanda anche ai nostri radioascoltatori. Se non ci si fosse mossi tutti nel proprio ruolo in tempo e il virus fosse stato veramente aggressivo, cosa avremmo sentito dire? Non ci si è approvvigionati, non ci si è messi nella giusta allerta? Allora, bisogna essere molto chiari. Quando l'OMS dà una certa allerta, che schematizza anche in livelli, scattano dei processi di risposta e di preparazione all'emergenza che sono già standardizzati, non si decidono di volta in volta. Quindi era assolutamente necessaria, data l'allerta da parte dell'OMS, aprire quella campagna e quei processi di prevenzione che implicano anche l'approvvigionamento di un vaccino. Fortunatamente, e dobbiamo essere solo contenti, che sino ad oggi questo vaccino, dobbiamo dire sino ad oggi, attenzione perché il virus non è scomparso, sino ad oggi il virus non è stato particolarmente aggressivo, addirittura meno cattivo, se così possiamo dire, di quelli che sono i virus influenzali stagionali. Infatti noi in Italia abbiamo avuto solo 228 vittime a fronte di circa 500, poco meno ricoveri ospedalieri. Il problema non è se il Ministro della Salute o i Ministri della Salute, perché non è stata una decisione isolata del nostro Ministero, abbiano fatto bene o male. Bisogna capire se l'OMS ha dato un'allerta idonea e rispondente alla realtà mondiale. Alessandro? Sì, volevo fare una domanda. È vero che ci ritroveremo l'anno prossimo il vaccino dell'influenza normale con dentro già anche il vaccino anti-influenza A? Già stato fatto per l'emisfero continentale ed è così, settentrionale, scusi, è stato indicato dall'OMS e direi che anche questo fa parte di quello che è lo schema di approccio a questo tipo di pandemie. È buona norma inserire nel vaccino influenzale successivo a questa fase pandemica lo stesso virus. Il virus adesso come si sta comportando? Il virus non è sparito, sta circolando ancora, anche se con casistica molto ridotta. Sì. Io parlo a livello mondiale, ma anche in Italia vediamo che noi praticamente non registriamo quasi più casi. Però questo non significa due cose. Innanzitutto l'OMS non ha non ha dichiarato la fine della pandemia e quindi non ha dichiarato di chiudere con l'attenzione pandemica. Dall'altra parte, pandemie precedenti ci insegnano che i virus possono avere fasi diverse di presenza, quindi nulla osta al fatto che si possa prevedere anche un'altra ondata, che noi ci auguriamo essere come questa o addirittura inferiore. Ancora più lieve. Professoressa Gismondo, io la ringrazio per essere stato con noi. Lei digerisce bene, professoressa Gismondo? Sì, ma soprattutto quando non leggo articoli del genere che vanificano e non sono gratificanti per chi lavora tanto, perché qualcosa non avvenga. Le fa vedere, come si dice, il bruciore di stomaco. Sì, è vero. Grazie professoressa Gismondo. Grazie a voi. Buona giornata. Professor Costamagna, ma l'ansia, lo stress, la frenesia della vita moderna ha in qualche modo un ruolo nel scatenare i sintomi del reflusso? Ma senz'altro ha un ruolo nel come si vivono questi sintomi. Purtroppo non è che possiamo staccarci il cervello. È chiaro che quando siamo preoccupati, quando siamo ansiosi, quando siamo stressati, qualsiasi piccolo problema diventa enorme. Soprattutto di notte. In particolare se ci sono poi problemi di insonnia o problemi che si manifestano più frequentemente di notte, per il discorso che facevamo prima. Stiamo proprio siamo in notturna, Alessandro. Volevamo proprio parlare di notte. Molte persone avvertono questo bruciore alla gola e questa tossetta. È uno di quei sintomi di cui abbiamo parlato e che vanno comunque indagati, non solo perché non ci lasciano riposare bene. Sappiamo che dormire bene è assolutamente importante, quanto lo stile alimentare e l'attività fisica, ma anche perché a volte il reflusso si presenta proprio come con una tosse. Professor Costamagna. Sì, questo è uno degli aspetti spesso difficili da interpretare, cioè sono i cosiddetti sintomi extraesofagei. Diciamo che i due sintomi fondamentali della malattia del reflusso sono il bruciore alla bocca dello stomaco, cosiddetta, che in termini tecnici si chiama pirosi, sì, e il rigurgito. Questi sono i due sintomi classici. Poi esistono altri sintomi che possono allarmare molto il paziente, ad esempio il dolore toracico, che è generalmente legato a uno spasmo indotto dal reflusso dell'esofago, che può assomigliare a un dolore di origine cardiaca, quindi spaventa il paziente, che spesso va in pronto soccorso proprio per escludere che non ci sia un problema di tipo cardiaco. Professore, però fa bene, no? Meglio un saltino in più, sì, che un saltino in meno. Pensate che circa un terzo dei dolori toracici visti nei pronti soccorsi non sono di origine cardiaca, ma quasi tutti di origine da reflusso. E poi ci sono questi altri sintomi respiratori, che possono andare dalla tosse fino addirittura a delle vere e proprie crisi di asma bronchiale, di broncospasmo, che possono essere indotte dal reflusso anche in assenza di sintomi tipici e quindi chiaramente non vengono immediatamente diagnosticati. Elisabetta ci chiama da Padova, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Sì, io volevo solamente chiedere una cosa, se è possibile prendere il Pantec anche in allattamento. Anche in allattamento. Professor Costamagna. Una mamma che allatta con problemi di reflusso con una terapia farmacologica, che deve fare? Allora, in linea di massima, sia durante il primo trimestre di gravidanza che durante l'allattamento, meno farmaci si pigliano, meglio è. Questa è una regola, ecco. Regola d'oro. Perché i farmaci chiaramente passano anche nel latte e quindi vengono assunti in parte anche dal bambino. Per quel che riguarda gli inibitori di pompa, che io sappia non ci sono grossi problemi. Però certo, diciamo sì, che l'ideale sarebbe non dover prendere farmaci. Professore, magari si può insistere sulla dieta, come lo schema della dieta di Star Bene, Alessandro, ne volevamo parlare, può essere utile a tutti, anche alle mamme che allattano. Sì, più che altro era uno schema, diciamo, di una giornata senza reflusso, almeno questo era l'obiettivo. E partiva appunto con una colazione che ha, naturalmente noi l'abbiamo preparata con un gastroenterologo, non ce non la siamo inventata, tu. No, non l'ho preparata io, anche perché allora. Io non faccio una colazione adatta al reflusso. E per esempio, poi il professore ci aiuterà anche lui, ci conforterà, chiaramente il discorso del caffè, purtroppo caffè e tè contengono sostanze che non sono amiche di chi ha questo problema, per cui niente, cioccolato anche, insomma il latte è possibile, lo yogurt, dei biscotti secchi, dei cornflakes senza cioccolato, perché poi adesso i cornflakes sono sempre un po' misti, sono sempre più... accattivanti. E alle 11 viene consigliato uno spuntino a base di frutta fresca di stagione. Allora, intanto che voi vi prendete, evitando gli agrumi, cioè i cibi acidi, perché acido è acido. Ci eravamo lasciati allo spuntino di metà mattina con la frutta e non agrumi, pere, mele, banane. Alle 13 e a cena un monopiatto, cioè puntare o sul primo o sul secondo, l'ideale sarebbe il pesce, la carne bianca, sempre con verdure, però diciamo il discorso è non riempire troppo e puntare su un monopiatto col contorno. La frutta lontana dai pasti e bere poca acqua non gasata. Professor Costamagna, abbiamo attraversato questa giornata antireflusso, vuole aggiungere o precisare qualcosa? No, mi sembrano dei consigli tutti fondati, assolutamente fondati. Una cosa che volevo aggiungere è che penso sia molto importante, che molto spesso nei pazienti che hanno un reflusso gastroesofageo si associa un rallentato svuotamento gastrico. Sì. Che è spesso dovuto anche proprio all'iperacidità, che è una delle prime cause del rallentato svuotamento gastrico. E quindi il concetto vecchissimo per tutte le patologie gastriche di fare tanti piccoli pasti durante il giorno e non due mangiate importanti, sì, è estremamente importante per il funzionamento dello stomaco. E poi possiamo aggiungere come consiglio quello che consigliavano le nostre nonne, masticare a lungo perché la prima digestione viene in bocca? Professor Costamagna? Certamente, certamente. Non solo masticare a lungo, ma anche prendere, come dicevamo all'inizio della trasmissione, prendere il tempo necessario per mangiare e non correre, perché anche questo, oltretutto, il fatto di mangiare rapidamente, di ingurgitare, è una delle ragioni della distensione gastrica dopo il pasto, perché mandiamo giù dell'aria involontariamente e quindi poi la necessità di eruttare, quindi tutta una serie di, ecco, di il classico sintomi panino che sono legati proprio a questa mancanza di tempo per l'alimentazione. Professore, quindi il classico panino al volo rischia di trasformarsi in un mattoncino. Rapidamente andiamo da Giulia che ci chiama dalla provincia di Varese. Buongiorno Giulia. Oh, buongiorno signora, vorrei parlare con dottor Costamagna. Io ho un bambino di 3 anni. Sì. Che da un anno che non mangia più di tanto, ho trovato 3 volte nelle feci del sangue vivo, addirittura anche dei coaguli di sangue. Sì. E niente, la pediatra mi ha fatto fare degli esami, mi ha mandato dalla gastroenterologa e niente, abbiamo fatto anche la calprotectina. Allora, la ricerca anticorpi, antigliadina, HIGG, è risultata positiva. Poi gli esami di sangue, le piastrine sono quasi 600, VES 20. Guardi Giulia, io capisco che il professor Costamagna, questi numeri a lui sono sicuramente familiari e danno un po', definiscono un po' la situazione. Non possiamo però per radio dare tutti i valori degli esami, quindi io giro questa storia al professor Costamagna, un bambino così piccolo che ha problemi digestivi. Professore. Beh, è un bambino che deve essere valutato appunto da un gastroenterologo pediatra possibilmente. Certo. Diciamo i segni che racconta la signora sono dei segni importanti, per cui sicuramente deve essere affidato a uno specialista. Da quelle cose che mi ha detto mi sembra di aver captato che l'unica cosa positiva erano gli anticorpi antigliadina, quindi probabilmente siamo di fronte a un morbo celiaco anche. Che spesso si presenta sotto mentite spoglie, ma sì, nei bambini la diagnosi è facile. Quindi Giulia, la ringrazio per essere intervenuta, nel caso essere benessere @radio24.it. Andiamo a Torino, c'è Diego, buongiorno. Pronto, buongiorno. Diego. Sì, Senta, io volevo chiedere che rapporto ha l'attività fisica. Io non faccio grandi sforzi, faccio solo delle corse, sì. Però io ho scoperto di avere l'elicobatterio. L'elicobacter. Allora, professor Costamagna, l'attività fisica che voi sempre suggerite di fare fa bene o fa male per questo tipo di disturbi? L'attività fisica fa sempre bene per definizione. Sì. E quindi qua non ci sbagliamo. Fatta in maniera corretta, senza esagerare, e in relazione alle proprie possibilità, in relazione all'età, in relazione, insomma, con un po' di buon senso, come tutte le cose nella vita. Però l'attività fisica è importantissima, è quello che dicevamo prima, ad esempio per innescare il processo digestivo. E quindi fare una passeggiata anche senza dover fare una corsa, sì, dopo aver mangiato è molto molto importante. Alessandro, volevi... Volevo fare una domanda a cui tengono moltissimi tutti quelli che prendono gli inibitori di pompa protonica, che sono questi farmaci fantastici che ti permettono di non avere il bruciore di stomaco tutto il giorno. Ecco, però molti di loro devono prenderlo per tempi piuttosto lunghi. La preoccupazione è: che cosa può succedere? Può cambiare qualcosa nel mio intestino? Erano venute fuori appunto delle segnalazioni della farmacovigilanza su una più accesa aggressività delle interferenze con le benzodiazepine. Ecco, quindi, chi ha la cura cronica? Farmaci a vita, e che cosa comporta? Esatto. Professore. Allora, fermo restando che naturalmente bisogna individualmente cercare la dose minima indispensabile per star bene, e questo è estremamente individuale. Ci sono pazienti che possono stare anche per lunghi periodi senza farmaco e poi magari per un periodo di acidità maggiore doverlo riprendere. Noi per esperienza sappiamo che molto spesso questi farmaci sono sovradosati, non sottodosati, quindi molte persone che fanno uso quotidiano in realtà potrebbero farne a meno di un uso quotidiano. Certo. Quindi questa è la prima cosa da tenere presente. Dall'altra parte del discorso però c'è da dire che questi sono dei farmaci sicurissimi che ormai conosciamo da decenni. Ci sono pazienti in cura con questi farmaci continuativamente da decenni, e tutto quello che si pensava all'inizio potesse succedere, perché c'erano state delle segnalazioni sull'animale d'esperimento, addirittura di rischio di tumori, di cose del genere, è assolutamente inesistente. L'unica cosa che sembra sia venuta fuori recentemente e possa essere legata a un consumo di lunga durata di PPI è una lieve tendenza a sviluppare osteoporosi più di una persona che non ne ha fatto uso. Comunque, mi raccomando, moderazione, la giusta dose, professore, anche qui è sempre una questione di equilibrio e di indicazioni corrette. Sì. E la giusta dose è assolutamente individuale, anche in relazione naturalmente a tutto il resto che abbiamo detto, quindi all'alimentazione, alle situazioni di stress. Quindi bisogna, io dico sempre, navigare a vista ed essere pronti a cambiare la terapia secondo delle necessità. Professore, allora navigheremo a vista, intanto lei ci ha indicato un'ottima rotta, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie altrettanto. Ci ha raggiunto Alberto Pellai, perché in chiusura non potevamo fare a meno di commentare, l'avete sicuramente letto sul giornale, il gruppo di Facebook Giochiamo al tiro al bersaglio con i bambini down. Volevamo parlarne, noi nel titolo abbiamo messo con i bambini, abbiamo messo la parola down. Alberto, ciao e benvenuto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Io credo che questa notizia chiaramente trova tutti noi molto disorientati. Com'è possibile che lo strumento della rete diventi una possibilità per attivare così, direi, illegale? Allora, c'è un livello che è quello della legalità, che è fondamentale qualcuno si prenda a carico, e quindi i gestori della rete, la legge, magari lo stesso Ministero delle Comunicazioni. C'è poi un livello che è quello educativo, per cui io mi sentirei di dire a tutti i genitori e gli insegnanti all'ascolto: non fate finta di niente, imparate a parlare di una cosa del genere con i vostri figli, aiutateli anche a diventare in qualche modo dei contropropositori di una cultura positiva. cosa potresti fare tu personalmente per dire che sei contro questo messaggio? Cosa puoi dentro al tuo Facebook, al tuo profilo personale, scrivere o dire a tutti i tuoi amici che ci sono in rete? Portate questo caso anche dentro alla classe, provate a immaginare se voi sapeste che un vostro amico o compagno ha stupidamente sottoscritto questa cosa, magari dicendo: ma è una ragazzata, cosa vuoi che sia? Provate proprio a costruire le risposte perché non è una ragazzata, perché ognuno di noi costruisce la cultura della comunità alla quale appartiene, perché ognuno di noi si deve sentire corresponsabile di un evento di questo tipo e cosa può fare in prima persona. Quindi perché se non è vero avvenga che siamo più una rete, la rete deve funzionare e noi siamo quella rete di protezione. Grazie ad Alberto Pellaio, ad Alessandro Pellizzari, grazie a voi che ci avete seguito. Appuntamento come sempre a domani dopo il GR delle 11. Buona giornata.